In mostra i percorsi di Palazzo dei Diamanti portano un protagonista del Novecento, un maestro, un genio del Novecento tra storia e mito. Periodo molto fecondo, il Novecento italiano, per quanto riguarda evoluzioni e correnti artistiche, tanti gli artisti, è giusto portar sul podio alcuni che non hanno avuto il riflettore meritato. Quindi, bravi curatori di Palazzo dei Diamanti, grazie a Chiara Borrasi, che è la curatrice di questa esposizione, che troveremo nella sede estense fino al 25 febbraio 2024. Che nome è al completo? Achille Virgilio Socrate Funi, beh, del resto lui arriva in un momento particolare, nasce a fine 800, 1890 da Piano Gentile, scompare il 26 luglio del 1972. Lui nasce a Ferrara, un pittore italiano, fra i precursori del movimento artistico del Novecento, che nasce ufficialmente nel 1922 a Milano. È stato anche scultore, architetto, illustratore, scenografo e grafico. Comunque, tra le tante cose, negli anni 30 ha teorizzato e praticato il ritorno alla pittura murale, quindi veramente un artista con visioni più estese di quanto ci si possa immaginare. Ci soffermeremo sul Novecento per quanto riguarda Achille Funi, inteso come movimento artistico che secondo me merita una attenzione particolare. Ritorno all'ordine dopo le avanguardie, come vi ho anticipato subito dopo il Last Minute. Identificato Medeschi, Martin and Wood, questo trio per dare colonna sonora nel periodo di passaggio tra epoche, tra gli anni 90 e il 2000. Hanno attinenze anche con la musica, con il nostro protagonista, e non solo, con il Novecento inteso come movimento artistico. È un movimento nato a Milano, come ho detto, nel 1922, viene iniziato da pittori come Sironi, Achille Funi, Leonardo Duderville, Anselmo Bucci, Malerba, Ubaldo Oppi. Ecco, questi artisti, sostenuti dalla Galleria Pesaro di Milano, si uniscono al nuovo movimento battezzato Artisti del Novecento, impegnandosi reciprocamente ad esporre le loro opere solo nell'ambito di questo gruppo inizialmente. Nel 1922, quindi siamo dopo la prima guerra mondiale, sorge questa corrente artistica europea che propone la centralità della tradizione, della storia, del classicismo, della fedeltà figurativa. Infatti, per alcuni aspetti, quando poi prende la visione critica, diventa questa visione arte degenerata, perché ve ne è un'interpretazione critica e oltretutto una, tra virgolette, uscito dal classicismo con un'interpretazione dei personaggi assolutamente contemporanea per l'epoca. Allo stesso tempo rifiuta gli estremismi dell'avanguardia che aveva dominato fino al 1918, tornando quindi ad un tipo di ispirazione tradizionale, e questo è l'aspetto di ritorno all'ordine. Esteticamente bellissimo, fra l'altro, espressionismo in Germania, nuova oggettività in seguito, e l'aspetto poi filosofico filosofico di realismo magico, di cui parleremo con la curatrice Chiara Vorrasi dell'esposizione protagonista Achille Funi. In Italia questo cambio di direzione venne incoraggiato da Valori Plastici, che è una rivista di critica d'arte fondata già dal 1918. Il movimento fu una reazione alla guerra e subito abbandonò il cubismo, facendolo rigettare persino dai suoi primari inventori, cioè Braque e Picasso. E la stessa sorte toccò al futurismo al contempo, che aveva lodato macchinari, violenza e guerra, e fu abbandonato allo stesso modo da quasi tutti i suoi fondatori. Ad esempio De Chirico, che dopo essere stato interventista, ha visto la situazione e ha detto: stiamo sbagliando qualcosa, aspetta un attimo. Un altro grande ferrarese, grandissimo, che tra l'altro ammiratore di Achille Funi. Comunque entriamo nel dettaglio grazie alla conversazione che ho avuto con Chiara Vorrasi, e quindi direi di partire per conoscere questo maestro del Novecento tra storie e mito. È naturalmente molto importante per noi come musei, sono anche la conservatrice delle Gallerie d'Arte Moderna Contemporanea di Ferrara, trattandosi di un artista ferrarese ampiamente rappresentato nelle collezioni dei nostri musei, ma che poi è stato uno dei protagonisti della scena artistica italiana del primo Novecento, facendo capo soprattutto a Milano. Siamo lieti di poterla raccontare, questa personalità, e per noi anche un'occasione per ristudiarla, perché non si finisce mai di rileggere e riaggiornare una lettura critica. Uno dei protagonisti della scena italiana, dal futurismo al cosiddetto ritorno all'ordine, si è distinto dall'ala moderata dei futuristi, era tra le generazioni più giovani, e poi è stato uno dei grandi interpreti delle tendenze del cosiddetto ritorno all'ordine, con una sensibilità che lo avvicina al realismo magico in una data molto precoce, e fra l'altro può essere considerato uno degli anticipatori delle poetiche della nuova oggettività tedesca, e poi è stato uno dei fondatori del Novecento italiano, ossia del moderno classicismo, che sotto l'egida della Salfatti di fatto interpreta l'estetica del ventennio negli anni 20. E poi negli anni 30 uno dei protagonisti è accanto a Mario Sironi del muralismo, ossia ancora una volta della partecipazione italiana al dibattito internazionale sull'ipotesi di un'arte pubblica che abbia un impatto sulla collettività, anche se poi ovviamente in ogni paese e in ogni ambito specifico veicola contenuti diversi. Per il Bauhaus è una concezione che rivoluziona democraticamente l'estetica e con il contributo di tutte le arti, l'estetica quotidiana. Per il muralismo messicano ovviamente ha un segno opposto di sinistra, ma comunque sono tutti artisti che si interrogano, che si pongono di fronte alle sfide del presente con un'opzione di rinnovamento artistico, anche se guarda al passato, se recupera i canoni dell'arte classica e persino le tecniche tradizionali. Quindi un artista che ha dato risposte diverse in tempi diversi alle sfide poste dall'arte del primo Novecento. Snake Anthony come out on the road with us, we knew we were the best. The very best. When Snake Anthony came out on the road with us. Medeschi, Martin and Wood per me rappresentano perfettamente questi passaggi di un classicismo, tra l'altro l'uso dell'organo Hammond da parte di Medeschi e una scrittura che a volte ha motivo di flirt con il funky, come stiamo ascoltando, questo incalzare, questa ritmica e la raffinatezza della sua ricerca diversificata allo stesso modo. Per questo ho cercato di portarla con attinenza all'artista Achille Funi in esposizione a Ferrara, Palazzo dei Diamanti. John Zorn, col quale hanno collaborato e collaborano all'organo, John Medeschi, che l'abbiamo ritrovato al fianco di John Zorn nella Basilica di Santa Maria dei Servi a mezzanotte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Come ascoltatore, tengo. All'avanguardia dei miei 20 anni questa, andavo tra Camarillo in via Ferrarese, ora non esiste più, poi diventato Free Time, in seguito Gospel, e cercavo i dischi di questa formazione. Parlo di fine anni 80, inizio anni 90, poi in seguito questo trio proveniente da un quartiere di Brooklyn, che poi vi spiegherò, un acronimo particolare. In seguito passarono, dopo i primi dischi di avanguardia, di ricerca, passarono alla Blue Note Record, da cui appunto ho preso selezione. Ed è il ritorno all'ordine, se ci pensiamo, anche nella musica, Per alcuni elementi fondamentali nel classicismo, l'immagine che lui darà dell'acqua, che darà della terra, che darà di alcune interpretazioni dalle Metamorfosi di Ovidio, quella appunto di Fetonte che cadrà nel fiume Eridano in quanto ha osato sfidare e ha insistito per poter guidare il cocchio del sole, che poteva trainare solamente, almeno guidare per meglio dire, solamente il padre Febo, il grande Apollo, ma lui ha insistito tanto, stava per rovinare tutto, stava per creare un disastro, altro che cambiamento climatico, stava veramente per bruciare e congelare tutto il globo terracqueo, finché Zeus, Giove, dice a male estremi, estremi rimedi, lancia un fulmine e lo fa precipitare. E lui cade nei pressi, si dice, tra i miti fondatori di Ferrara, tra Ferrara e Rovigo in diversi centri trovate Piazza Fetonte, proprio per ricordare le metamorfosi di Ovidio. Allo stesso modo vengono riprese anche, e seppur con un ritorno all'ordine, nel mito e anche nel sacro, anche negli elementi primordiali, la serie, oltre che nel mito di Ferrara, che ne parleremo con Chiara Borrasi al termine per quanto riguarda questa nostra conversazione dedicata all'esposizione a Palazzo dei Diamanti Achille Funi, e anche una sorta di percorso e la ricerca. In tutto questo la stessa curatrice, presentando l'esposizione in linee iniziali, ha concluso dicendo: dà in continuazione motivo di ricerca, e allora è il momento di entrare in mostra. La mostra ripercorre proprio i passi dell'artista lungo tutto l'arco della sua carriera. Sono oltre 130 le opere in mostra, quindi ovviamente includono praticamente tutti i suoi capolavori, ed è la più estesa mostra allestita negli ultimi 50 anni, da quando appunto la mostra postuma ne aveva reso nota, diciamo, tutta la produzione. Si apre quindi con le opere della giovinezza, in cui già Funi dà prova, diciamo, di quella attenzione maniacale allo studio del disegno, che ne fa naturalmente un grande candidato poi a recuperare il segno dei maestri antichi. E poi si passa alla sala della rivoluzione futurista. Funi è ancora a Brera quando deflagra le grandi parole d'ordine del futurismo lanciate da Marinetti a Parigi, e ha come compagni di accademia proprio Carrà, Russolo, che poi lo mettono in contatto con Boccioni, quindi il primo un virato più radicale del futurismo è tra le sue più strette conoscenze, e questo lo porta a misurarsi giovanissimo con questa novità, dando delle risposte che vengono ammirate dallo stesso Boccioni, quindi dal capofila del futurismo, che ammira la sintesi e il dinamismo di opere come Un uomo che scende dal tram, un capolavoro del Museo del Novecento che, insomma, si vede appena entrati, ci accoglie diciamo nella prima prospettiva che Palazzo dei Diamanti propone, con questa visione dinamica che dalla figura dell'uomo si proietta alla città che gli fa da sfondo, che si muove come una sorta di giostra secondo il ritmo appunto accelerato della vita moderna. E poi la mostra ci conduce attraverso l'esperienza della guerra, con un nucleo veramente straordinario di disegni di quel periodo che si sono conservati con un'immediatezza, una capacità di restituire i momenti delle attese, questa sospensione, questi momenti sottratti alla dimensione drammatica della guerra, ma che tutto sommato appare latente, quindi una sorta di umanesimo che ci porta all'interno, diciamo, della riflessione umana sull'esistenza stessa. E quantunque Funi da interventista, da futurista interventista, minimizzasse, diciamo, l'impatto drammatico sull'esperienza umana, questi disegni parlano per lui, insomma, per la sua coscienza. We'll be right back. parte di Ritorno all'Ordine di Medeschi, Martin and Wood dalla loro label la Gramma Vision, saranno poi per la Blue Note Record, e ho preso i dischi di quel passaggio da Combustication che stiamo ascoltando in questo momento, in precedenza altri lavori per Medeschi, Martin and Wood, tra cui quello che è particolarmente in evidenza per questo passaggio che è An Invisible, copertina bellissima. Di ricordare anche questa sera dalle 8 circa, anticiperò il concerto che ci sarà a Binario 69, di cui vi darò alcuni dettagli e poi un po' di musica anche in conclusione. È inerente al Bologna Jazz Festival edizione 2023. Hemong sarà protagonista per il Bologna Jazz Festival nella sede di Binario 69, come vi ho detto sarà anticipato da selezioni musicali da me curate all'inizio e al termine del concerto. Hemong è una formazione che vede il frontman Michele Bonifati, che abbiamo già sentito per Jazz Live. Le sonorità sono legate alla casa discografica indipendente, che per me anche questa è da ascoltare tutta, è la casa di Fazzini, questo compositore, musicista, contraltista, e la casa è la Nausica.org. Scusate, piccola divagazione, torniamo in mostra, siamo a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, percorsi in mostra ovviamente di una mostra corposa, 130 opere, e quello che vede dalla modalità di futurismo interpretato in maniera molto costruita e allo stesso tempo ispirata, tanto da essere definito così, sembra un ossimoro ma un futurista moderato, ma è molto attinente a tutto ciò. Nella seconda parte di conversazione con Chiara Vorrasi, curatrice della mostra, in conclusione appunto per lui sarà certo una presa di coscienza il ritorno dalla prima guerra mondiale, seppur all'inizio come lo stesso De Chirico, interventista, e come tanti altri artisti poi di ritorno si ritrovano completamente sconvolti, ed è una sorta di rigetto con un ritorno all'ordine che può diventare anche una denuncia, quello che è stato definita poi, sapete, la prima guerra mondiale ha dato adito agli assolutismi, nazifascismo e via discorrendo, una più grande tragedia veramente, generazioni in trincea sbudellate, accoltellate sotto le bombe, un massacro di ragazzi giovanissimi, e purtroppo quello che poi ne è succeduto, come ben sapete, chi semina vento raccoglie tempesta. Gli artisti che sono stati presenti e che hanno rivisto visto le loro posizioni, come ripeto De Chirico e non solo De Chirico, hanno avuto poi modo di dare anche con, in Germania, con l'espressionismo, Repubblica di Weimar, che viene definita poi dal regime immediato successivo come arte degenerata. Eh sì, perché portava in linguaggio assolutamente comprensibile un motivo di critica molto molto forte. Tra tutto questo poi troviamo la nuova oggettività, il realismo magico, e di realismo magico parleremo nella seconda parte di conversazione con Chiara Borrasi, curatrice della mostra a Palazzo dei Diamanti, Achille Funi. A tra poco, a dopo la pubblicità. diretta e tornando con il motivo di conversazione con il quale ci siamo lasciati, poco fa è stato il 4 novembre e non vedo proprio cosa ci sia da festeggiare, proprio niente. È una, più che un festeggiamento, è una commemorazione di giovani caduti ingiustamente, di vite troncate, malamente. Parliamo di musica, Medeschi, Martin and Bud, e poi riprenderemo nei nostri percorsi a Palazzo Diamanti per quello che è, come ho detto nei diversi passaggi, come anticipatore Achille Funi del realismo magico per quanto riguarda l'Italia. Allora, vi ho detto dell'acronimo di questo quartiere di Brooklyn chiamato Dumbo, D-U-M-B-O, Down Under the Manhattan Bridge Overpass, è il quartiere dove si sono formati appunto Medeschi, Martin and Bud. Ma continuiamo a parlare con Chiara Borrasi per l'esposizione protagonista quest'oggi in mostra, in un passaggio di cui Funi è stato anticipatore. E poi l'approdo anticipatore, diciamo, delle tendenze della nuova oggettività a quello che è l'anticamera del realismo magico, con opere che si confrontano con la metafisica come genealogia del Marte, e che guardano agli esempi del passato per costruire una visione del presente che sia allo stesso tempo oggettiva, quindi realistica, un realismo però magico, venato, diciamo, di quella quasi sovraesposto fino ad assumere una dimensione magica che permette di trasporre l'esperienza quotidiana nella dimensione eterna di una visione che guarda al passato e che quindi ha per questo, diciamo, un crisma diverso, sottrae quella che è l'esperienza drammatica che il quotidiano aveva posto alla possibilità comunque di attingere a dei valori eterni, questi valori appunto magici che il realismo peculiare di quegli anni propone, che è l'anticamera della grande stagione del Novecento italiano. Alcuni capolavori del realismo magico, dalla Terra a Maternità, fino a un'opera, diciamo appunto, ci sono occasioni di studio, un'opera ripescata, proprio rintracciata dopo un secolo dall'ultima volta che era stata esposta al pubblico, L'acqua, rintracciata in una collezione privata, ed è un'opera che ci parla dello sconfinato amore per Leonardo, ma anche di una visione intensamente rivolta al presente. Sono queste figure, queste sorte di archetipi che dal passato, vestite di abiti moderni, è come se portassero arricchissero la dimensione presente dei doni della natura, che sono un po' il simbolo di quella rinascita che si auspicava che in qualche modo potesse essere veicolata dal regime, che in quel momento questa adesione è uno degli aspetti, l'esigenza forse maggiore che condivideva Funi con gli artisti del Novecento era quella proprio di candidare l'arte come la possibilità di uscire dalla contingenza del presente e proporre una dimensione alta, e questo lo fanno opere che guardano al classicismo come la Saffo, che è un'interpretazione in chiave italiana delle bagnanti monumentali del Picasso neoclassico. L'esposizione sarà fino a febbraio 2024, per la precisione sarà fino al 25, quindi fino a fine febbraio 2024, ma 2024 è bisesto? Beh, mi è venuto adesso un attimo di distrazione per quanto riguarda tutto ciò. In conclusione, il mito di Ferrara, l'amicizia con De Chirico, per quanto riguarda il maestro del Novecento tra storia e mito, Achille Funi. Ferrara è giustamente considerato la summa dell'opera di Funi, come dicevo, non solo perché recupera quella vena visionaria che gli viene dalla frequentazione fin da giovane della pittura dei maestri dell'Officina Ferrarese, Cosmettura, piuttosto che appunto gli altri maestri che dipingono a Schifano e che hanno lasciato a Ferrara le testimonianze, e non a caso è anche l'occasione per riscoprire la Ferrara di Funi, non solo nella sala della lingua del Palazzo Municipale, ma anche le opere che lo hanno ispirato per Ferrara. Però è anche una testimonianza della capacità di Funi di guardare al presente, per esempio nella scena di uno dei miti fondativi di Ferrara, quello di Fetonte, che viene precipitato da Giove nel fiume Ridano. La caduta di Fetonte, che guidava maldestramente il carro di Apollo, che si porta dietro il cocchio di cavalli che precipita, proprio nelle ricerche condotte per questa mostra siamo riusciti a risalire alla fonte picassiana, alle metamorfosi di Ovidio illustrate da Picasso con un motivo di cavalli che si ribaltano su se stessi, e prima che il cavallo assumesse la valenza drammatica di Guernica per Picasso, trasmetteva appunto questa visione, che era un tempo veramente dinamica e quindi moderna, ma che traduceva il mito in qualcosa di vivo, che si rinnova continuamente. È appassionato sull'opera dei grandi del passato, dei maestri, cercando appunto di riscoprire, come diceva De Chirico, sistemi perduti e perduti segreti. De Chirico vede in lui un operaio sognatore che si affanna di continuo verso il senso della divina bellezza. In questo atteggiamento retrospettivo verso il passato, che Funi mantiene anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando oramai l'arte, l'asse del dibattito artistico, tendeva verso il presente in maniera bruciante, Funi continua a rimanere coerente a quella che è la sua ispirazione, in un atteggiamento che, come quello di De Chirico, poi verrà rivalutato nel momento in cui il postmodernismo riconosce questo ripiegamento dell'arte su se stessa, della riflessione dell'arte su se stessa, una risposta alle aporie della modernità, insomma, una visione che ha un'apertura anche sul presente, in questo senso. E sarà in esposizione fino al 25 febbraio 2024 a Ferrara, Palazzo dei Diamanti. Appunto, anticipazione a quelli che sono i contenuti nella città estense per il protagonista Achille Funi, un maestro del Novecento, esattamente tra storia e mito. Grazie a Chiara Vorrasi, co-curatrice della mostra, e le auguro una buona giornata e a un altro appuntamento sui 103.1. A presto, grazie. Grazie. Ah, ci siamo un po' così, abbiamo dato approfondimento alle correnti artistiche, ai passaggi storici, al dialogo con altri artisti dell'epoca, arte non solo, il Novecento, come vi ho detto, ricchissimo in quel periodo. Io chiudevo, prima dei saluti, con un aspetto che è immediato, e a volte anche la musica che stiamo ascoltando non dimentica di dare un'estetica, un piacere visivo, un'estetica. Ecco, Funi ha una grandissima estetica, ha una modalità nel disegno bella, molto bella. Quindi io rinnovo l'appuntamento, ne abbiamo parlato in maniera così estesa perché meritava tale approfondimento a Palazzo dei Diamanti. La rubrica in mostra tornerà giovedì prossimo. Io vi do appuntamento questa sera al Binario 69, dalle 20 circa, un po' di musica, poi inizierà il concerto Michele Bonifatti e Hemong per Nausicaa.org all'interno del Bologna Jazz Festival. Concluderemo la serata riprendendo le selezioni musicali di Willy Groove. Devo cambiarlo un po' questo nickname perché ormai ha 55 anni, Willy Groove, dai, va là. E vabbè, ci penserò sopra dopo questo momento di crisi da uomo di mezz'età, però vi voglio lasciare con un sorriso e con un caloroso abbraccio, con l'appuntamento a domani, vigilia di weekend alle ore 7, con una prima colazione in diretta, il Breakfast Club, che vi porterà in scena. Quindi poi l'anticipazione con Minimal Music curata da Walter Rover. Sapete che seguiamo tutto il programma di Angelica. Grazie per l'attenzione, un buon ascolto su Radio Città Fujiko, una buona mattinata dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.